Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Berlusconi al processo Mediaset, IPM contro il paese, dice, fuori un comizio improvvisato tra cori e bandiere. Immigrazione, vertice europeo, Napolitano, si continui tenacemente sulla via dell'Europa. Marchionne, anche Fiat lasciata sola e presto l'acquisto di nuove quote Chrysler. Giappone, un'altra forte scossa a Fukushima, un mese dopo l'emergenza non è finita. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Si è presentato in aula a Milano come annunciato Silvio Berlusconi. In tribunale si è appena conclusa una nuova udienza del processo Mediaset. Fuori i sostenitori del Premier hanno montato per qualche ora anche un palco e intonato l'inno del PDL. Berlusconi è uscito dal tribunale pochissimi istanti fa, ha improvvisato un discorso alla folla che ha concluso così. Questo dunque quanto sta accadendo fuori dal Tribunale di Milano tra bandiere, cori e applausi all'uscita del Premier Berlusconi, che in aula invece parlando a margine con i giornalisti ha duramente attaccato i giudici. L'intervista è di Raffaella Calandra, ve ne facciamo ascoltare un ampio stralcio. La riforma della giustizia è una riforma completa che prevede un cambiamento profondo in tutto l'assetto della magistratura, non è affatto punitiva, ma è per riportare la magistratura ad essere quello che deve essere, non quello che oggi è come arma di lotta politica, e questo non funziona. Presidente, se dovesse arrivare una condanna, prego, nel processo... Persone, ma che condanna, dai. Sabato sera si ride in televisione. È una magistratura che non lavora per il paese, ma contro... Presidente, pensa che il processo Rubi la preoccupa? Ma il processo Rubi intanto è infondato, è senza senso, non esiste. Presidente, come spiega quelle conversazioni in cui sembra che si debba, diciamo, decidere la linea degli interrogatori difensivi? Nemmeno per sogno, non esiste assolutamente. Le intercettazioni non fanno fede. In un paese serio le intercettazioni non sono prova, né per l'accusa né per la difesa. Sono assolutamente manipolabili. Non dico assolutamente che questo sia successo qui. Sto affermando che in un paese civile le intercettazioni telefoniche non possono essere portate in processo come prova né per l'accusa né per la difesa. A questo si aggiunga che ciò che si dice al telefono in un paese libero e democratico è inviolabile. Questo dunque in tribunale a Milano, abbiamo sentito i sostenitori del Premier, anche una manifestazione questa mattina a sostegno invece dei magistrati. E intanto in queste ore è il ministro degli interni Maroni a difendere la posizione italiana in Europa sull'immigrazione, ma ha parlato questa mattina anche il presidente della Repubblica per difendere invece l'Unione Europea. Sentiamo Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. L'emergenza immigrazione è sul tavolo dei ministri degli interni e della giustizia riuniti a Lussemburgo. L'Italia punta ad ottenere il via libera al decreto sui permessi temporanei che consentirebbe ai migranti già arrivati nel nostro paese di andare negli altri stati dell'Unione. Oggi vedremo se esiste un'Europa unita e solidale, ha detto al suo arrivo il ministro dell'interno Roberto Maroni. Sentiamo le sue parole. Un'Europa unita e solidale o se è solo una espressione geografica? Abbiamo avanzato da tempo delle richieste precise e oggi vedremo se c'è questa Europa unita e solidale oppure se non c'è. Il compito dell'Italia, lo ricordiamo, non è certo semplice, è necessario superare la contrarietà di Francia e Germania. La stessa commissaria agli affari interni Malmström ha spiegato: il decreto sui permessi emanato dal governo italiano non conferisce automaticamente la possibilità di muoversi liberamente nei paesi Schengen. Per il ministro degli esteri Frattini, tuttavia, il provvedimento di Palazzo Chigi è invece in tale ambito. Infine, il capo dello Stato Giorgio Napolitano ricorda: non scherziamo sull'Europa, no a dispetti, ritorsioni o addirittura separazioni. Ed è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Migliette. A Lampedusa intanto sono cominciati i rimpatri dei tunisini. Nelle ultime 24 ore sono sbarcate a Lampedusa altre centinaia di persone e 3 scafisti sono stati arrestati. Ma oggi cominciano anche i rimpatri, decisi a seguito dell'accordo siglato la settimana scorsa con le autorità tunisine. I primi a partire saranno 30 uomini, ciascuno accompagnato da 2 poliziotti. Pare che la situazione nel campo a Lampedusa sia tranquilla, ma pare anche che i migranti non sappiano che saranno trasferiti a Tunisi e non in Italia. Sono invece in coda volentieri davanti alle autorità gli immigrati nella tendopoli di Manduria, in Puglia. La questura di Taranto ha aperto un ufficio immigrazione direttamente nel campo. Ci lavorano 8 poliziotti ed è aperto dalle 7 alle 21. Dei 1.300 ospiti del campo, in 1.000 hanno già presentato richiesta per il permesso temporaneo, ma probabilmente lo faranno tutti, perché il permesso arriverà subito, mentre chi chiede asilo politico rischia il rimpatrio se non lo ottiene entro i termini di legge. Tra pochi giorni, infatti, è prevista la consegna dei primi permessi, carte magnetiche, prodotte e inviate direttamente dalla Zecca di Stato. Sono lascia passare, a corto raggio però, ma anche questo i migranti non lo sanno. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E ieri si è votati in Svizzera, dove vince la politica anti-stranieri, ma gli stranieri in questo caso siamo noi. La Lega dei Ticinesi di Giuliano Bignasca, movimento euroscettico e anti-italiano, ha registrato un trionfo alle elezioni cantonali in Ticino, ottenendo quasi il 30% dei voti, l'8% in più rispetto al 2007. Con l'esultazione di Bignasca e della piazza alla Radio Svizzera Italiana. Vittoria! Il padrone del Ticino siamo noi adesso! Abbiamo vinto e comandiamo noi! Va bene? Se con Roma le cose non cambiano, gli tagliamo i frontalieri, ha detto Bignasca subito dopo la vittoria, alludendo al taglio degli arrivi dall'Italia che ogni giorno si recano in Svizzera per lavoro. All'estero, nuove forte scossa di terremoto in Giappone, un sisma di magnitudo 7.1 ha colpito questa mattina la zona di Fukushima ad un mese esatto dalla catastrofe. Ne parleremo in uno speciale tra poco alle 13.15. Ora andiamo invece in Libia, dove Gheddafi ha accettato la roadmap proposta dall'Unione Africana per trovare una via d'uscita al conflitto. Il colonnello ha ricevuto sotto la sua tenda la delegazione dell'Unione Africana, come ci racconta Cristiano Tinazzi, che in questo momento è in viaggio verso Misurata, città nella quale si combatte una strenua battaglia. Ieri appunto è arrivata la delegazione dell'Unione Africana, sono stati i primi aerei che si sono visti dopo settimane a causa della no-fly zone appunto che vieta il sorvolo aereo sul territorio libico. In sostanza hanno parlato pochi minuti, forse una mezz'ora con Gheddafi all'interno del campo di Bab el-Azizia, siamo riusciti ad arrivare sotto la tenda, dopodiché sono usciti i delegati, è stato letto un comunicato e pare che da parte governativa siano state accettate le proposte della delegazione della missione dell'Unione Africana e poi oggi sarebbero partiti alla volta di Bengasi per cercare di convincere anche l'altra parte in campo, che sono appunto i ribelli. I ribelli hanno sempre chiesto, prima di qualsiasi trattativa, l'allontanamento di Gheddafi e del suo clan. Non è possibile farlo da questo lato, non accetteranno mai questo tipo di soluzione. Ora sta a vedere se all'interno della componente dei ribelli si riuscirà a trovare qualcuno che è più disponibile ad avviare una sorta di mediazione e quindi che riesca a convincere anche le ali più radicali. Mai così soli, questo il messaggio lanciato dalla presidente degli industriali Emma Marcegaglia. Questa mattina ha parlato l'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne. La Fiat, quello che stiamo cercando di fare, riflette la mancanza di coesione, no? Questa battaglia che abbiamo fatto per Pomignano e Mirafiori. Siamo soli in questo, no? Non c'è altra. Siamo gli unici che siamo, per il momento, che siamo stati disposti ad affrontare il problema. Noi abbiamo un problema tutto unico. Stiamo rivivendo adesso sul problema della Bertone, no? La Fiat è stata una chiarezza incredibile su questo, no? Abbiamo un contratto a Mirafiori e uno a Pomignano che è stato ormai votato dalla maggioranza ed accettato dai nostri dipendenti. Non posso creare due stati nella Fiat, no? Facciamo vetture a Bertone come le facciamo a Mirafiori, come le facciamo a Pomignano. Produzione industriale in ripresa. A febbraio c'è stato un aumento dell'1,4% dopo il calo di gennaio. Nel confronto annuo la crescita è del 2,3%. Ma per gli italiani la crisi pesa ancora, così almeno denuncia oggi un rapporto Caritas. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Una famiglia su quattro non è più in grado di garantire il regolare pagamento della rata concordata con la banca. La Caritas lancia dunque l'allarme per il rischio povertà che riguarda le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo per l'acquisto di una casa. Se si considerano poi le spese di gestione, quasi la metà dei nuclei familiari è costretto a versare oltre il 30% del proprio reddito per l'abitazione. Il rapporto traccia anche l'identikit delle famiglie più a rischio, le mononucleari o composte da un adulto più uno o due figli, basso grado di scolarità, e le famiglie più a rischio si trova una sorpresa nelle regioni settentrionali, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, perché spiega la Caritas le regioni più esposte sono proprio quelle economicamente più dinamiche, ovvero quelle che consentivano prima della crisi di scommettere maggiormente sul futuro. E da Roma è tutta, a voi. Grazie ad Alessandra Schepisi. Siamo così alla pagina sportiva con l'eredità della domenica di calcio. Il Milan, passato a Firenze, accelera nella volata scudetto. Un abbraccio, forte, intenso, prolungato, come tra due amici che insieme stanno per tagliare un traguardo inseguito a lungo. Così Zlatan Ibrahimovic e Alexandre Pato festeggiano il gol del brasiliano che a Firenze chiude la sfida con i viola già al 40°. Il papero sigilla una triangolazione tra lo stesso Ibra e Boateng, così come mezz'ora prima aveva ispirato di testa il destro di Seedorf, che era valso l'1-0 proprio dopo una bella intuizione dello svedese. Il Milan che vince e convince, Ibra e il papero, 14 gol a testa in campionato, amici per la pelle e per lo scudetto. Poi però le strade di Pato e di Ibrahimovic si dividono ancora, con Zlatan al rientro dopo le due giornate di squalifica per l'espulsione col Bari, che si becca un altro rosso diretto per le proteste contro la terna arbitrale. Altra squalifica in arrivo quindi, e allora con la Sampdoria a San Siro e a Brescia ci dovrà pensare ancora lui, il papero. Nel bene e nel male, insomma, sarà, Napoli permettendo, il campionato di Pato. E dire che pochi mesi fa era dato in partenza per il Chelsea. Poi sono arrivati i gol a Grappoli e l'amore con Barbara Berlusconi. Come dire che la dedica per il tricolore in arrivo è già scritta. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.